Ricordate, si parte da 300 gradi e si aggiungono 200 gradi per ogni secondo. L'obiettivo è raggiungere almeno 1100 gradi, facendo attenzione a non superare i 1300 gradi.